In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Molti cominciano a farsi una domanda: non è che stiamo regredendo? La specie umana è sempre stata in evoluzione, Darwin lo ha spiegato nei minimi dettagli. La vita sulla Terra è sempre stata contraddistinta, insomma, da un processo di adattamento, di selezione, di miglioramento. Beh, negli ultimi decenni la sensazione che abbiamo, insomma, è che gli esseri umani siano entrati un po' in una spirale nella quale tutto sembra tornare indietro, si fanno sempre meno figli, le guerre sono sempre più terribili, insomma la tecnologia viene usata più per la guerra che per migliorare la situazione degli esseri umani, non c'è un gran riguardo per l'ambiente, la natura viene sfruttata in maniera incondizionata, insomma sembra veramente che l'uomo stia tornando indietro. E oggi vi voglio parlare di un gruppo musicale, di una band che ha teorizzato questo momento regressivo quando ancora il mondo viveva, diciamo, nella sua bolla di entusiasmo post bellico, quando si pensava che gli esseri umani fossero in costante miglioramento. E invece questa band ha cominciato a indicare prima di tutti il fatto che probabilmente invece si stava per avviare il processo contrario. Bene, sto per parlarvi dei Devo, band americana che a fine degli anni 70 e negli anni 80 ha teorizzato l'avvento della devoluzione, cioè della fine del progresso umano. L'anima più creativa, poliedrica di questa band rivoluzionaria è stata Mark Mothersbaugh, che era un musicista, un artista, un performer. Bene, oggi racconteremo la storia di questo precursore. Nasce il 18 maggio del 1950 da una famiglia operaia, 5 figli in tutto, e abitano, attenzione, a Akron. Avrete sentito dire la parola acrilico, viene da Akron, città industriale, la capitale mondiale della gomma, perché ci sono grandi industrie lì come la Goodyear. Siamo nell'Ohio, oltre alle fabbriche non c'è altro, ma guardando la cosa in retrospettiva, Mark non si lamenta, anzi in realtà la mancanza di qualsiasi tipo di possibilità per lui si rivela quasi una fortuna. Il fatto di vivere in un deserto culturale chiamato Akron in Ohio alla fine si è rivelato un vantaggio. Il fatto che nessuno sapesse chi fossimo e nessuno prestasse attenzione a noi ci ha dato il tempo di lavorare su nuove idee e nuovi concetti. E il suo mondo è limitato non solo dalla piattezza delle risorse che gli offre la città, ma anche tecnicamente, perché da quando è piccolo lui ha una menomazione visiva, all'inizio non gli viene diagnosticata, è una miopia così forte che virtualmente lo rende quasi cieco, ha una visione che non va oltre i 20 centimetri, insomma si costruisce una realtà alternativa, perché oltre quella distanza ci sono solo luci e ombre, proprio un super, ahimè, ipovedente. Vive in questo mondo senza contorni definiti, i dettagli, le sottigliezze, le sfumature sono inesistenti. Non è che non sappia cosa ci sia fuori, lo può vedere nelle foto che avvicina agli occhi, però il suo unico modo di conoscere la realtà è quello, cioè non la vede per davvero. We are. insomma anche per questo motivo il ricordo dei primi anni di vita di Mark Mothersbaugh è quello di un mondo misterioso, frustrante. Per lui frequentare la scuola è molto difficile, non vede la lavagna, quando gli viene chiesto di fare degli esercizi non sa cosa rispondere, viene sempre punito, è già afflitto dalla terribile sensazione, soprattutto quando sei bambino, dalla sensazione di essere diverso da tutti, fino a quando finalmente verso i 7 anni si compie il miracolo, trovano gli occhiali adatti a lui. When I was 7, I got my first pair of glasses. A 7 anni mi fecero provare il mio primo paio di occhiali e dopo aver trascorso 7 anni praticamente da cieco, finalmente potevo vedere per la prima volta ed era fantastico. E così iniziai a disegnare. E la mia maestra, che prima aveva l'abitudine di rimproverarmi sempre, mi disse: «Hai disegnato un albero molto meglio di me». E così cominciai a sognare di diventare un artista. A quel tempo odiavo la musica, perché mi facevano prendere lezioni di organo. Poi vidi i Beatles ed Ed Sullivan e capii come mai mi avevano torturato per tutta la vita con l'insegnamento dell'organo, per poter suonare anch'io. E così a 12 anni sapevo già che volevo diventare un artista multidisciplinare in tutti i campi. Eh sì, quanti ragazzini americani hanno iniziato a suonare perché hanno visto il mitico passaggio dei Beatles all'Ed Sullivan Show, e anche lui ha una molla che scatta da quel momento. Comunque Mark è un ragazzino particolare e rimane particolare anche se ha migliorato nella vista. Va a scuola vestito in giacca e cravatta a 10 anni pur di distinguersi, non ha ancora trovato la sua strada, la sua anima vera, però sa, ha capito di non essere uno del gruppo, sa di non essere come gli altri, costruisce il suo percorso su questo e i suoi insegnanti lo considerano un problema, però c'è almeno uno di loro che è il professore d'arte, che riesce a guardare oltre le apparenze, insomma capisce che Mark è un ragazzo intelligente, sensibile, gli consiglia di andare al college. E per la famiglia Mothersbaugh questa è una sorpresa. Loro sono una famiglia di minatori, nessuno era mai andato oltre le scuole dell'obbligo, hanno la paura di non potersi permettere la spesa. Però c'è questo professore che sottopone i lavori di Mark alla commissione per le assegnazioni delle borse di studio, insomma lui ce la fa e si guadagna un aiuto per pagarsi il college e inizia una nuova vita alla Kent State University, finalmente in un luogo libero, nessuno lo mette in punizione per come si veste, può seguire liberamente i corsi d'arte che desidera e soprattutto al college inizia a interagire con altri ragazzi e fa l'incontro più importante della sua vita, quello con Jerry Casale, che diventerà l'altra colonna portante dei Divo. We were art students. Quando incontrai Jerry Casale, entrambi eravamo studenti d'arte alla Kent State alla fine degli anni 60. Iniziammo collaborando a qualche progetto di arte. All'inizio lui era curioso di me perché facevo dei murales con degli astronauti sulla superficie lunare con delle patate in mano e voleva incontrarmi e io ero curioso di lui da quando la professoressa di lettere si lamentò dicendo che c'era questo intelligentone in un'altra classe che scriveva degli acid porno e io mi chiedevo: ma cosa sono degli acid porno? Però mi sembravano interessanti. E così alla fine ci incontrammo e lui voleva sapere come mai fossi così interessato alle patate. E iniziamo a parlare e finimmo a collaborare in dei progetti visivi. E questa amicizia tra Mark e Jerry si ciba di interessi comuni, velleità artistiche, di divertimento, anche impegno politico, grandi sogni insomma. Un giorno di maggio nel 70 questi sogni si spezzano quando, dopo giorni di proteste antigovernative per la guerra in Vietnam e per l'invasione della Cambogia, arriva nel campus la Guardia Nazionale, la chiamata al governatore dell'Ohio, e per riportare all'ordine gli studenti ribelli, la Guardia Nazionale apre il fuoco sulla folla. Rimangono al suolo i corpi di 4 ragazzi tra i 19 e i 20 anni. Quello che gli investigatori stanno cercando di capire è se davvero ci fosse un cecchino, o se la guardia fosse giustificata ad aprire il fuoco, o, come la maggior parte delle persone qui crede, se la guardia sotto pressione per il lancio di pietre, in preda al panico, abbia aperto il fuoco in maniera indiscriminata uccidendo 4 persone. CBS News, at Kent, Ohio. Spring of 70, Nella primavera del 1970 ci siamo trovati in mezzo alle sparatorie della polizia alla Kent State. Jerry era vicinissimo ad una delle ragazze uccise. Mi pare che più di 30 ragazzi rimasero feriti. 4 morirono e chiusero l'università. Non potemmo frequentare le lezioni. E Mark e Jerry sono lì, tra la folla che protesta. Jerry è amico di 2 delle vittime, al momento della sparatoria è a pochi metri da Allison Krauss, che è una delle 2 ragazze uccise. Come dice lo stesso Jerry, in quel momento smisi di essere un hippie. Forse è proprio in quel momento che nascono i divo, una nascita profondamente legata ai fatti della Kent State. Lo shock per le morti della Kent State University di fronte alla violenza gratuita, di fronte a questa sopraffazione che ha messo in atto il governo, Mark Mothersbaugh e Jerry Casale decidono che l'evoluzione della specie umana, che fino a quel momento era stata in costante crescita, abbia raggiunto un punto di rottura, che è cominciata la devoluzione, e temo che avessero ragione. È partita la regressione verso un mondo primitivo, verso l'uomo che torna feroce, che diventa barbaro, non più civile, non c'è speranza, non c'è futuro, e qui ci si va a avvicinare al concetto no future del punk, a meno che, insomma, per i 2 amici, Mark e Jerry, l'unica soluzione è quella di vivere in maniera ancora più creativa. Insomma, l'arte è l'unica risposta, solo l'arte può fermare i barbari, solo l'arte dà ancora la possibilità di ribellarsi al potere costituito. Pensavamo che, così come esisteva un art déco e un art nouveau, ci sarebbe stata un art devo, e che la nostra sarebbe stata una specie di fabbrica come la factory di Andy Warhol. Ma visto che noi vivevamo in una vera città operaia, la nostra sarebbe stata più autentica. Ci vedevamo un po' come degli artisti di performance art, degli agitprop. Per gli anni seguenti, però, i primi progetti di Mark Mothersbaugh e Jerry Casale sono progetti principalmente visivi, graffiti, progetti grafici che vogliono essere testimonianza della loro teoria, la devoluzione dell'umanità. E poi, però, c'è anche l'amore per la musica. Vogliono formare una band. E sì, perché già da qualche anno Jerry Casale suonava il basso in un gruppo blues chiamato Numbers Band. Mark suona con i Flossy Bobbit. I was playing in a blues band and he was playing. Io suonavo in una band blues e lui in una band che faceva cover di hard rock. E insieme abbiamo deciso di smettere perché era folle non prendere in considerazione tutte le implicazioni dell'arte visiva che stavamo producendo in quel momento. Ci chiedevamo, quest'arte che facciamo, quest'arte che chiamiamo de-evolution, quest'arte divo, cosa succederebbe se fosse musica, se ci fosse della musica divo? E così abbiamo iniziato a vederci la sera, tanto non c'era davvero nient'altro da fare ad Akron, tranne cercare di mettersi assieme ed essere creativi, perché non c'erano né distrazioni né attrazioni. e a meno che non fossi nella squadra di football o il direttore di McDonald's, non riuscivi a portare fuori una ragazza. E quindi facevamo musica. La cosa interessante dei Divo è che assieme alla musica lavorano all'immagine, a partire dai costumi di scena, scelgono di esibirsi con delle tute, perché se il concetto è quello della fabbrica artistica, allora devono mettersi gli stessi abiti indossati dagli operai. Quelle dei Divo però le tute sono più artistiche, sono gialle fluorescenti, più simili a quelle usate per la protezione dai materiali tossici. Il tocco d'artista sono i cappelli, che diventeranno col tempo dei coni rossi fatti un po' come una piramide a gradoni. In realtà la presenza di Mark Mothersbaugh in questa band che sta nascendo aggiunge questo gusto per l'assurdo, per la contaminazione, grafiche sperimentali, ricerca di espressioni che magari dietro a questo apparente infantilismo possano invece scardinare la convenzionalità. Mark, peraltro, si rivela un pianista dotato, però a lui non interessa il virtuosismo, non vuole emulare i grandi tastieristi del momento, che sono Emerson e Wakeman principalmente, quelli del mondo del progressive. A lui interessa un suono inaspettato, una sporcatura, gli interessa un'altra strada, diciamo quasi la ricerca della tonalità. I mean, I remember hearing the first... Ricordo che ascoltai il primo album dei Roxy Music. C'era una canzone intitolata Editions of You, con un assolo di piano che mi ha fatto rizzare i peli, perché il tastierista aveva trovato una maniera per produrre proprio il suono che stavo cercando io. Era Brian Eno, che a quel tempo non avevo idea di chi fosse, ed era riuscito a tirare fuori un suono dal suo sintetizzatore assolutamente liquido, gommoso. Fino a quel momento l'unica persona che mi piaceva come suonasse e la musica che faceva era Sun Ra, che suonava come fosse un bambino, super atonale e fuori controllo. Per la maggior parte del tempo suonava come un bambino che faceva i capricci. It sounded like a baby throwing a tantrum, most of it, you know. E beh, l'assolo di Editions of You dei Roxy Music ha segnato molti destini, compreso il mio in qualche modo, quello di Silvio Capeccia, tastierista dei Decibel. Beh, comunque, il risultato di questo percorso è una band che si colloca dalla parte opposta rispetto a quello che succede nelle radio commerciali, evita strutture melodiche, a favore di composizioni molto più particolari, i canti magari sono fatti in coro ma sono cori strani. Anche le prime registrazioni dei Divo vengono fatte in studi particolari, si autoproducono loro, creano un sistema per pubblicare, per promuovere il loro lavoro, che è totalmente fatto in casa, fatto in maniera autarchica, diciamo, per evitare di sfruttare i canali tradizionali. Loro hanno in mente un esperimento artistico completamente diverso e diventano dei precursori. Alla metà degli anni 70 la volontà di autoprodursi era sconosciuta, tutte le band, insomma, cercavano un contratto con qualcuno. E il risultato è che quando loro decidono finalmente di tentare la fortuna a New York, sono una band già avviata, non sono alle prime armi. Gli anni di Akron hanno regalato la capacità di presentare un progetto articolato, un progetto completo. Sono peraltro già un gruppo musicale molto rodato, però hanno anche ben chiare altre idee, come sarà la grafica dei loro poster. Sanno proporre uno spettacolo che è un evento artistico, a partire diciamo dalle tute che indossano, che li fanno sembrare dei cosmonauti russi degli anni 50. Insomma, Akron, loro hanno avuto tutto il tempo per creare una loro estetica che ha unito un progetto più ampio, una visione proprio intellettuale e giocosa. Sanno giocare con creatività, con le cose serie, senza farsi del male. Tutto questo è una cosa mai vista prima. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando il genio anomalo di Mark Mothersbaugh, una delle due anime della band dei Devo, l'anima gioiosa, irresponsabile, creativa, l'anima spiazzante, e l'altra anima è Jerry Casale, il bassista più strategico, più pragmatico. Partono dalla città industriale di Akron e si impongono sulla scena della new wave americana grazie a questo progetto a 360 gradi, con una parte visiva importante quanto quella musicale. Abbiamo raccontato del loro sbarco a New York. Fino a questo momento hanno prodotto cose da soli, soprattutto dei film, per raccontare il loro concetto di devoluzione, cioè del rallentamento, dell'involuzione del genere umano. Fanno delle performance artistiche in questi film, suonano i loro pezzi, ma fino a quel momento non c'è ancora nessun disco. E poi succede l'evento: loro stanno suonando il loro concerto di debutto nel mitico Max Kansas City di New York, e in sala entrano due grandi della musica di sempre, Brian Eno e Robert Fripp. Brian came to a Devo show at Max's Kansas. Una sera Brian venne in uno dei nostri show al Max Kansas City insieme a Robert Fripp. E dopo lo show ci invitarono a casa di Robert, dove ci dissero che sarebbero stati felici di lavorare con noi se la cosa ci interessava. Dissi di sì, e che avevo appena dato un'intervista dicendo che Brian Eno sarebbe stato il primo con cui avrei voluto produrre un disco, subito seguito da David Bowie. E così Brian disse: beh, perché non facciamo un album insieme? Ma io gli dissi che non avevamo contratti con nessuna casa discografica, e lui ci disse: non preoccupatevi, i soldi ce li metto io. La proposta di Brian Eno è di andare a registrare un disco negli studi Connie Plank a Colonia in Germania, studi mitici. C'erano due grandi studi in Germania, questi di Colonia e soprattutto gli Hansa Studios, ma lì diciamo si muovevano più sull'avanguardia, Kraftwerk. Anche David Bowie andò lì, insomma. E in questo album Brian Eno punta sui Devo e produce il loro primo album, intitolato Question, Are We Not Men? Answer, We Are Devo. Cioè, domanda: siamo uomini? Risposta: siamo i Devo. Le premesse sarebbero le migliori, e in realtà c'è qualcosa che non funziona tra Brian Eno e i Devo. Forse il fatto che i Devo sono già un progetto pensato in tutte le sue forme, e quindi loro si dimostrano a volte refrattari di fronte alle proposte di Brian Eno, non si gettano tra le sue braccia, diciamo. E quando il disco esce riceve critiche miste. Il critico del Rolling Stone scrive che nel disco non c'è un'oncia di sentimento. Beh, certo, è una musica diversa, non fatta per i sentimenti. È l'unico impegno nei confronti di un'estetica che tiene a distanza la parte passionale. E certo, insomma, questa viene vista come un difetto, ma in realtà è un pregio in questo caso. Insomma, il risultato per i critici è una musica impersonale, non benissimo. Va meglio solo con un altro giornale che si chiama il Village Voice, che lo mette tra i migliori album dell'anno. È un album con molta carne al fuoco. Per esempio c'è un brano che si chiama Yoko Homo, dove per la prima volta viene introdotta nel video una maschera infantile indossata da Mark sopra la tuta di protezione nucleare, con l'idea, insomma, di ridicolizzare la regressione infantile dell'uomo occidentale. E poi nell'album c'è un'altra grande idea, una cover, ma è una cover molto particolare, perché il brano è I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones, ma qui il brano viene totalmente stravolto. Alla fine probabilmente questa è una delle migliori cover mai fatta sulla mitica Satisfaction. Can't get no satisfaction. E dopo il primo album arriva Duty Now for the Future nel 79, ma soprattutto l'album del trionfo, l'album che rimarrà per sempre dei Divo, Freedom of Choice 1980. C'è anche uno dei loro più grandi successi, che è Whip It, che diventa un famoso video musicale. A lungo si è creduto che parlasse di masturbazione, di sadomasochismo. In realtà i Divo erano molto di più che una micro trovata, parlava un po' di tutto. E lì i Divo vanno anche in tour, sbarcano in Europa, arrivano in Italia. Io vi posso dire che forse il concerto più bello, più strano sicuramente, che io abbia visto in vita mia, perché era curato nei minimi particolari, ma era anche un concerto nel quale non riuscivi a stare fermo per un secondo, insomma, veramente travolgenti. Dopo Freedom of Choice arrivano New Traditionalist dell'81, o Noise Divo dell'82, poi nell'84 esce un album particolare, si chiama Shout. Va male perché in qualche modo si incrina al meccanismo, l'elettronica prende il sopravvento sul suonare, perché poi la live band dei Divo era comunque un gruppo fantastico anche umanamente, cioè suonavano bene. Forse questa diventa la loro devoluzione, forse la rincorsa del suono elettronico, la voglia di essere futuristi, alla fine insomma si scontra con la stessa anima dei Divo e forse anche con i gusti della gente. Cercavo dei suoni simili a quelli dei futuristi degli anni 20. I futuristi dicevano le orchestre moderne non dovevano avere solo i soliti strumenti, ma anche quelli che trasmettevano lo spirito della cultura industriale, e quindi aggiungevano sirene da nebbia ai motori degli aeroplani, cose di questo genere, alla loro batteria di strumenti quando facevano musica. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. A questo punto della nostra storia, in qualche modo, le strade di Mark e di Jerry si stanno allontanando l'una dall'altra. La voglia di provocazione di Mark si scontra col pragmatismo di Jerry Casale, e il fallimento di Shout, insomma, determina una serie di eventi negativi, la rescissione del contratto con la Warner. Improvvisamente Mark si trova praticamente senza lavoro, però uno così riesce comunque a trovare un nuovo progetto. Lui ne trova uno che si adatta anche alla sua indole così ludica: creare la musica per uno dei programmi per bambini più famosi del momento in America, il Pee-wee's Playground. Mi chiamò un amico, Paul Rubin, chiedendomi di fare la colonna sonora di un suo show televisivo, il Pee-wee Playhouse, e io gli dissi ok. In quel periodo con i Divo avevamo fatto due album con l'etichetta Enigma, che aveva fatto bancarotta, avevano dei problemi finanziari, e così questi mi mandano una cassetta lunedì. Io gli scrissi un album completo per martedì, l'ho registrato il mercoledì, gliel'ho spedito via posta, siamo prima di internet, giovedì. Venerdì lo hanno mixato nello show, sabato lo vedemmo alla televisione, e quando Paul mi disse che avremmo potuto farlo tutte le settimane, gli risposi: ci sto, è fantastico, posso fare un album alla settimana. Sign me up for this. This is great. I get to do an album every week. Beh sì, posso fare un album alla settimana. La creatività di Mark Mothersbaugh può esplodere anche lontano dalle grandi arene del rock and roll. E così Mark Mothersbaugh scopre questo mondo inesplorato: musiche per la televisione, per il cinema. Peraltro questo succede mentre i Divo si stanno sgretolando sotto i colpi delle critiche non positive, anche di frizioni interne. E così Mothersbaugh si getta in questa nuova avventura, trasforma la sua professionalità. I Divo sono praticamente sull'orlo dello scioglimento, si scioglieranno nel 91, ma Mark ha già un piano B che è diventato un piano A. Ha fondato la sua casa di produzione musicale per la pubblicità per il cinema, la Mutato Musica. con la mutato musica Mark mette a segno tanti colpi di livello, scrive colonne sonore, musiche per videogiochi, insomma la sua società si impone come una delle case di produzione musicale per cinema e TV più famose della West Coast, ma lui non dimentica i Divo. Dopo la rottura del 91 passano 5 anni, poi la band torna assieme per un concerto reunion nel 96, fanno ogni tanto degli spettacoli, tornano anche in studio per registrare, ma causano polemiche. Nel 2005 includono una nuova versione di Weep in uno spot pubblicitario e naturalmente i fan talebani, e ognuno ha i suoi fan talebani, e non apprezzano moltissimo. Ma il bisogno di creatività di Mark Mothersbaugh non si ferma qui, il suo vecchio amore, l'arte visiva, non si è mai sopito. Alla fine c'è una produzione fantastica di quadri, espone in almeno 150 gallerie in tutti gli Stati Uniti. Il risultato di questa grande mole di lavoro è stata una mostra retrospettiva che il Museo di Arte Contemporanea di Denver allestisce nel 2014 per celebrarlo, per celebrare il genio di Mark Mothersbaugh. E poi ci sono anche tra i suoi lavori le bellissime copertine che i Divo hanno creato per il loro album, che sono dei capolavori grafici, come non so la copertina interna di Duty Now for the Future, quei bellissimi poster della propaganda sovietica fatti, come dire, rivisitati da grandi artisti. E poi ci sono i grandi successi della sua società, per esempio recenti Lego Movie, Hotel Transilvania, insomma Mark Mothersbaugh magari non sarà più l'espressione più anarchica della lotta contro il potere, perché da un lato rimane un anarchico, un estroso, però dall'altro fa parte del sistema, è un noto e affermato professionista hollywoodiano che fa affari con lo show business, questa è la verità, ma non è un ingranaggio passivo, è il suo modo di vincere la sua battaglia, è proprio questo, dentro al sistema ma con la sua creatività e anche con questo spirito infantile, giocherellone che lo ha sempre contraddistinto, insomma non c'è niente di meglio del gioco per arginare il potere. L'epopea, la grande favola dei Divo va a interrompersi. Alan Myers, il batterista, e Bob Casale muoiono a un anno di distanza nel 2013 e nel 2014, e in qualche modo dei Divo, insomma, resta la capacità rivoluzionaria, l'unicità e anche il fatto che siano stati tra le band che hanno influenzato di più tutti gli artefici della New Wave. E vi confesso, insomma, che anche noi Decibel, i dischi dei Divo, sia allora che adesso, li ascoltiamo molto molto volentieri. Ci sono storie di persone che hanno dato colpi d'ala, ecco Mark Mothersbaugh ha dato un colpo d'ala e anche una sportellata al sistema, riuscendo però a diventare parte del sistema da anarchico qual è. E se volete mandare dei commenti sapete dove trovarci. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.